Cari amiche, cari amici, bentrovate, bentrovati. Siamo in atmosfera pienamente natalizia, il 14 dicembre. Siamo tutti qui con un freddo assolutamente invernale. Quindi cerchiamo di consolarci come meglio possiamo. Quindi Giorgio si sta schiarendo le ugole perché stasera ha deciso che ci deve regalare una sorpresa, ma questo solo a fine puntata, quindi non lasciateci, ascoltateci fino alla fine, perché questa sera veramente vale la pena di ascoltare. È il regalo di Natale di Giorgio. È il regalo di Natale di Giorgio, sì. Di Natale. Ma è solo uno dei due, perché l'altro invece ce lo fa il grande Meridì. Che sarebbe? E ci parlerà della teoria delle corde. È sicuro, Giorgio, che questo non te lo saresti dimenticato. Della teoria delle corde. Ebbene sì. L'unica cosa, siccome sono leggermente influenzata, le mie corde stasera non suonano bene. E di sicuro nel ospite mi sembra che sia sto cercando di organizzare anche parallelamente. Nel 2011 ce ne dovrebbero essere già vari nei primi mesi dell'anno, e quindi comunque veramente ringraziamo tutti coloro che ci seguono appassionatamente e che ci fanno anche avere dei commenti. Anche quest'anno, Bruxellando ormai, diciamo, per quest'anno volge quasi al termine. Ci vedremo martedì prossimo per la classica puntata natalizia, poi ci sarà la pausa pasquale, la pausa natalizia ovviamente. Quindi, cara Fiordaliso, fa buon viaggio, mi raccomando, fa buone cose e ci rivedremo ugualmente tra qualche settimana. Vedo già Daniele comporre il numero in regia, ma prima magari parliamo un po' della nostra agenda. E c'è un'interessante mostra su Evelyn Axel, immagini contestatarie, e la mostra presenta il lavoro di dell'Axel, appunto, artista pop belga nata nel 1935 a Namur e femminista d'avanguardia recentemente riscoperta, e che ha cercato in maniera di tutto negli Stati Uniti e per l'Università delle Arti di Philadelphia, Seductive Subversion Women Pop Artist 1958-1968. E proprio in questa occasione il suo lavoro è stato reinterpretato e riconosciuto come una delle opere più edoniste e provocanti di questo periodo, sicuramente contestatario di quella che è la rivoluzione sessuale e culturale che ebbe luogo ormai più di 40 anni fa. Con una dizena di opere, l'esposizione cerca di trovare una risposta a quello che è il rapporto tra il soggetto e l'opera. In questa una parte partono dell'attualità politica dell'epoca, quindi le preoccupazioni del maggio del 68, le leggi razziali degli Stati Uniti, la contestazione o le contestazioni degli studenti e dei movimenti degli studenti, e dall'altro lato ovviamente le rappresentazioni apertamente provocatrici e seducenti della sessualità femminile e il suo ruolo nella rivoluzione sessuale di questo decennio, un tema molto caro alla Axel, che lo tratterà un po' costantemente durante tutta la sua opera. Noi vi invitiamo quindi al Vilsand da 4.000 fino al prossimo 16 gennaio. La domenica ugualmente è possibile visitarlo tra le 11 e le 18. Abbiamo trovato questo evento assolutamente interessante, quindi insomma vi auguriamo di partecipare e di trarne il massimo dei benefici. Ma abbiamo in linea qualcuno di già, mi pare. Walter! Eccomi qua. Oh, benvenuto, bentrovato. Ben ritrovato. Come stai? Io molto bene, la giornata non è delle più felici per chi come me in questo momento sta in Italia. Grazie Cesare, qui c'è il KD, utile anche oggigiorno. Comunque sia, parliamo di letteratura, dai, così magari troviamo uno sfogo a tante altre sensazioni che stiamo vivendo in questo periodo. Per quanti non si ricordassero, Walter è stato già nostro ospite sia in radio un anno e mezzo fa, sia anche diciamo ospite durante una presentazione dei tuoi ultimi romanzi, e questa sera noi siamo veramente deliziati dal fatto di poter proporre, non dico in anteprima perché so che già hai partecipato ad un'altra conferenza, ma quantomeno qui a Bruxelles in anteprima ti dica letteratura, il tuo cammino, oppure solo ci fai poi nel dettaglio a questo tuo ultimo romanzo? Sì, molto volentieri, ma parlerei proprio della mia attività dello scrivere. Bene. L'altra è importante, però cammina su un binario parallelo. Quello dell'impegno sociale che faccio da tanti anni a tutti i livelli e in molti paesi, non soltanto in Italia, ma da ultimo anche a Bruxelles e in Europa. No, lo scrivere è diciamo una passione connaturata con la mia indole. Sviluppo un attimo più, che ho dedicato lungo tutti questi anni nel mio lavoro professionale in quella città. I libri sono tre, due li abbiamo presentati recentemente sia in radio che a Bruxelles. Il secondo, I pupari, ho avuto la soddisfazione che qualche settimana fa, due settimane fa, ha vinto anche il premio narrativa di Pisa, che è un premio importante. E da una settimana è uscito il terzo, che è stato lanciato alla fiera almeno questa è l'ispirazione che mi ha portato, che affronta un tema di grande attualità, cioè il tempo malato in cui viviamo, l'illusione che in questo tempo malato si possa vivere non incontrando mai la realtà, vedendola sempre attraverso uno schermo che può essere uno schermo falso, quello del lavoro che si ottiene per raccomandazione, quello del potere della politica che controlla tutti i gangli della società, non l'italiano, in questo modo tutta la vita sembra una sorta di favola. Il denaro che crea denaro, la carriera facile, le spalle protette dalla raccomandazione politica, l'opportunismo e l'egoismo che ti prendono, non vedi più niente, non vedi più nessuno, questo ti porta anche a sentimenti superficiali, a volte a incontrare delle persone a cui non ti legano legami profondi e di un vissuto che soltanto la vita vera ti può dare, e ti accorgi che tutta la tua vita che è costruita sulla sabbia ti ributta indietro ferocemente, cadi a spalle in giù, ti fai male e lì si vede se hai la forza come uomo e come donna di rinascere e di reagire. Questo è un po' il senso di questo libro, almeno l'ispirazione che mi ha accompagnato nella sua scrittura. E io allora, tu hai descritto un po' in maniera generale, già a grandi linee, il contenuto. Quello che mi ha incuriosito davvero tanto, e magari ne possiamo parlare qui stasera, però è il titolo. Leggendo il libro, per spiegarci come mai proprio questa metafora, perché l'ho trovata veramente brillante rispetto poi magari ai fatti che tu racconti nel libro stesso. Beh, come è noto, il solstizio d'inverno cade il 21 di dicembre ed è la giornata che la scienza geografica definisce come la giornata più lunga in cui l'oscurità e il buio rimane più a lungo nel corso di quelle 24 ore. E questa è una metafora del tempo malato, del tempo buio, che conduce poi all'avvio della primavera. Bisogna arrivarci però alla primavera, bisogna passare tutto il freddo, il gelo dell'inverno e il buio dell'inverno. Non a caso l'ultima scena del libro è quella di un arcobaleno che si apre dopo tutto il freddo, dopo tutta la pioggia. Il libro è molto pieno di considerazioni severe, però la nuova generazione sia capace di ricollegarsi, e questa è l'immagine del libro, alla storia e alle radici anche delle generazioni precedenti, che quelle sì non hanno mai conosciuto la vita facile, hanno conosciuto il dolore, hanno conosciuto la fame, hanno conosciuto la povertà, hanno conosciuto la guerra. Parlo della mia generazione, di quella precedente alla mia, e quindi sono in grado di aiutare a trovare il sentiero e il percorso. Insomma, di speranza soprattutto per le giovani generazioni. E qui mi ricollego anche alla figura protagonista, a Gianni, che è la figura protagonista di questo tuo romanzo. E la cosa che mi ha colpito, perché è un elemento questo che ritorna un po' nella tua scrittura, è il legame che esiste tra il microcosmo, che è il paese di origine, quasi sempre abbiamo visto ambientato in Puglia, e poi il macrocosmo. Questa volta ritroviamo Roma, in passato avevamo visto che c'era stata Bruxelles, Parigi, la differenza tra quello che accade nel macro che si ritrova anche nel micro. E tu colleghi molto bene le dinamiche, come dicevi prima, e politiche che permettono poi a Gianni, attraverso le fatiche del padre meccanico, a questa carriera che, diciamoci la verità, grazie anche a un po' di fortuna e un po' di furbizia che accompagna lo stesso Gianni, riesce poi ad aprirgli le porte, insomma, di una carriera apparentemente facile. E questa è la prima parte. Poi c'è l'altro tema che tu riesci a mettere in maniera. Il libro nasce proprio facendo seguito a una riflessione su questo drammatico momento che noi viviamo pure a livello finanziario, al di là dei valori, voglio dire, che purtroppo possiamo constatare sono sempre un po' più dimenticati. Però veniamo quindi proprio a questo tema centrale, che è la crisi finanziaria. I dati non sono ancora incoraggianti nemmeno per il 2011, anzi, cioè quello che ci annuncia la BCE, quello che ci annuncia in generale, c'è un articolo molto bello, la delle di questa crisi finanziaria. Assolutamente sì. Io ho introdotto il tema della crisi finanziaria nel mio descritto, spero con puntualità. Posso confermare. I fondamenti che hanno costruito la speculazione finanziaria, la crisi dei subprime, i prodotti finanziari che hanno contaminato le banche, che hanno bruciato i risparmi di centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo, e l'ho descritto proprio sotto l'illusione falsa che nella vita si possa progredire al di fuori della sua concreto funzionamento, della sua realtà, ma con l'illusione che si possa diventare ricchi, si possa andare avanti con il denaro che crea soltanto denaro, mm-hmm. con la finanza che crea soltanto finanza. C'è questo mondo di carta, di false illusioni che ci hanno accompagnato in tutti gli ultimi anni e che mettono in piedi meccanismi di cartapesta che corrono il rischio di bruciare principi, valori, organizzazioni di vita, organizzazione del proprio progetto di vita medesimo. Cioè l'illusione che tutto possa essere facile, e cioè che per lavorare non occorre competenza ma occorre una raccomandazione, che per progredire in la carriera basta avere le spalle protette da chi finora ti ha garantito di poter essere assunto in quel luogo di azienda pubblica, uh-huh. che basta investire per poter moltiplicato come in un gioco di favole, di specchi, i denari con questa illusione delle banche che vendono denaro di cartapesta. Tutto questo per dire che tutto questo mondo corre il rischio di bruciarsi, di degradarsi in poco tempo, perché la vita reale poi ci dimostra che non sono questi meccanismi in grado di poter garantire la realtà vera. Incontri il mercato finanziario vero, quello speculativo, quello che ti brucia i risparmi, incontri la faccia del mercato politico vero, cioè quello che ti pensi che ti protegga, e invece basta che gira il vento, che cambi la maggioranza politica, che cambi il partito di riferimento, che ti trovi senza più nulla. E in questo caso questo scontro e questa realtà finanziaria e politica del mondo moderno ti tramortisce, ti riporta come in un gioco dell'oca alla casella di partenza, e devi rinascere, devi avere la forza di rinascere, elementari di una vita contadina di immigrati, con il controspecchio di una vita vicino alla, al corrompimento, come può essere la, una vita come quella della città di Roma, dove il protagonista, certo, certo, sì, sì, svolge la sua attività professionale, proprio come due mondi che si contrappongono, con principi che si contrappongono, dal paese, dai principi solidi, a invece al mondo in cui tutto può sembrare facile, ma in cui puoi essere spazzato via in un baleno. Basta che cambi il come succede nella parte finale. Nella parte finale poi del libro. Prima di passare alla parte finale, che poi diventa la parte effettivamente più avvincente, però ci sono due parole che vorremmo un attimo spendere su altri due personaggi: Luca da un lato e Cinzia dall'altro. Perché sono poi effettivamente le altre componenti, insomma, di questo teatro. L'uno praticamente coinvolto nel meccanismo finanziario, l'altra abituata poi a spendere anche in maniera veramente, come dicevi prima tu, senza tenere in considerazione alcun valore. Magari brevemente, insomma, parlarci di queste due figure, Luca e Cinzia. Sì, Luca è una delle tante persone che noi incontriamo tutti i giorni nella vita quotidiana, o meno quelli del Belgio, ma in Italia è assolutamente così. Cioè, Luca rappresenta questo giovane rampante di scarsa cultura, obbligato semplicemente per cercare di rifilarti un prodotto finanziario fasullo, vivendo di provvigioni, vivendo quindi anche lui in questo meccanismo perverso, ed è un personaggio che, come dimostra la vita di tutti i giorni, sono personaggi di grande insidiosità, perché sono affabulatori, sono capaci di nei momenti necessari del bisogno, da chi invece appena può si allontana, avendoti rifilato la fregatura, si direbbe tra virgolette, e sono dei personaggi pericolosissimi, che sono un po' ciò che in Italia, ma anche in Europa, è stata la generazione degli anni 80 e degli anni 90, una generazione cresciuta sull'individualismo e cresciuta sull'idea che non serve il lavoro per costruire la personalità di una persona, ma che ci sono tante scorciatoie nella vita, e quella anche di rendere tutti i giorni che dovremmo essere più cauti, più prudenti nel manovrare e nel gestirli. Cinzia invece è una ragazza, come ce ne sono anche qui tante di questa generazione, è una ragazza che ha sofferto, che ha fatto lavoro precario, che è stata nel call center, che ha conosciuto le difficoltà, ma che tutto sommato pensa anch'essa che la vita si possa costruire con un po' di furbizia e con un po' di opportunismo. Ciò che alla fine lega questa ragazza al protagonista del libro, Gianni, è un interesse all'inizio, più un amore. Si annoia nel suo piccolo paese di Amelia, e quindi è un aggancio di opportunismo. Ma quante persone egoiste ed opportuniste ne incontriamo tutti i giorni, che poi mostrano il loro vero volto più avanti, quando la storia si sviluppa, e mettono in evidenza la mancanza di cultura, la mancanza di sensibilità, e più che amore, più che sentimenti, aver coltivato semplicemente un interesse opportunistico. E tuttavia io penso, perché la stessa, mentre su Luca il giudizio è molto preciso, questi venditori di prodotti, improvvisamente con questo suo approccio opportunistico a incontrare benessere e ricchezza, che li ha sprecati come tante ragazze oggi fanno in palestra, in estetismo, in extension, piuttosto che in libri, in culture, in principi e valori, ma che poi, quando la vita ti colpisce duramente, quando ti rimane tra le mani il bruciore di un matrimonio fallito, di un sentimento fallito, di una ricchezza che sparisce, di un marito che finisce in cassa integrazione, io penso che questa generazione ha anche la capacità di riflettere e di ricominciare da capo, se sia possibile ricominciare da capo sia una vita di lavoro, ma anche una vita sentimentale, perché non chiude la porta al matrimonio fallito, prende una pausa di riflessione, sì, però ha il coraggio di rimboccarsi le maniche e di ripartire da capo. Infatti poi il libro non è pessimista in questo senso, apre alla fine in un in un investimento che riguarda la possibilità di riscatto di una generazione che io descrivo, quella dei quarantenni, che per fortuna loro non ha mai conosciuto il dolore, la povertà, la miseria e la guerra, ha avuto una vita abbastanza semplice e facile. Producevo delle domande e le domande scaturivano proprio da quello che tu dicevi. A un certo momento tu parli di personaggi che non incontrano mai la realtà. Allora la prima domanda è questa: che cos'è allora la realtà? Ho sentito poco bene la voce, perché non è molto forte il timbro delle parole che tu hai detto. Mi pare di aver capito che tu domandi che cosa sia in effetti la realtà. Sì, esatto, proprio questo, perché dici che non conto mai difficoltà, di cose belle mischiate a cose dure, a cose difficili, di illusioni ma anche di delusioni, ma è una realtà che tu affronti meglio se hai la capacità di aver costruito dentro di te una forza ed avere dei principi e dei valori che ti ispirano e che ti sanno discernere il giusto dallo sbagliato, ti fanno capire cos'è una cosa finta e fasulla, e ti danno prudenza ad affrontare avventure, perché capisci bene che la vita reale nel concreto è molto più dura e molto più difficile, che per affrontarla bisogna avere dei principi e dei valori, e per avere i principi e dei valori bisogna riflettere, certo, su quelli che abbiamo ricevuti e su come noi riusciamo a coltivarli con l'impegno, lo studio, la competenza e la cultura che ci deve accompagnare in tutti i momenti della nostra vita. Invece noi viviamo un tempo malato, in cui la vita la guardi attraverso lo specchio o attraverso lo schermo di un computer, di una vita virtuale, dove tutto a volte, in questo caso, nella descrizione di questo tempo malato, in cui ho voluto parlare del voto di scambio, del lavoro attraverso le raccomandazioni, di una carriera facilitata dalle spalle protette da altri, dall'illusione che i sentimenti sono superficiali, che non sono molto complicati costruire una vita insieme in due, perché tutto sommato basta poco per innamorarsi ma anche per lasciarsi, e che per avere la tranquillità finanziaria non serve la fatica di lavorare e di poter riuscire ad investire seriamente i propri risparmi, perché viviamo nel tempo che il denaro crea denaro, e purtroppo ciò ha rovinato il mondo e il mondo stesso negli ultimi due anni non è ancora uscita dal guaio che questo principio ha degenerato piuttosto che ha generato, cioè l'illusione che il mondo di carta pesta possa sostituire il mondo reale. Abbiamo già avuto qualcosa nel passato. Il futuro è più difficile e bisogna affrontarlo con gli occhi aperti, se no il mercato si prende la sua rivincita. Ah, se l'hai già presa nel 29, mi pare. Politica. Vabbè, giusto, se l'hai già presa nel 29 una rivincita, ce l'ha già avvertito. Ma non era proprio così, era diverso. No, però insomma, il meccanismo del 29. Ma era comunque il concetto dei soldi di carta pesta. Sì, sicuramente. Di invenzione americana, comunque, sì. Anche che se ne dica. Allora, proprio da quello che stavi dicendo tu, della capacità dei valori, io volevo così accennarti all'annaspo. L'annaspo è quello, il modo in cui io riassumo quello che mi sembra di vedere adesso in Italia. Proprio vedo persone che non costruiscono, partendo da basi, progetti e quindi poi costruzione, vedo che annaspano. La decisione presa all'istante e avrà degli effetti immediati, per poi dopo richiederci un'altra decisione con effetti immediati. Insomma, a me sembra che in questo momento noi non siamo in grado di affrontare la complessità. Abbiamo un problema di gestione della complessità. Dall'altro l'evoluzione del mondo, che ci porta ad avere sempre più cose da gestire. Dall'altro però il fatto anche che forse pretendiamo troppo, pretendiamo di controllare troppo. E quindi anche i minimi particolari degli eventi, no? Bisogna sempre arrivare all'obiettivo, tenere in considerazione tutto, anche l'imprevisto. Allora io mi chiedo, di fronte a questa incapacità di gestire la complessità, che è evidente, qual è la soluzione che tu immagini? Cioè, dovremmo forse agire sulla semplificazione, quindi rovesciando quello che è la cultura imperante invece che ci porta a dover decidere e gestire sempre tutto, o agire sugli strumenti culturali e quindi di fatto poi sul potenziamento della scuola, che è la donatrice, la datrice di questi strumenti culturali. Qual è la tua idea in proposito? Sì, la tua interpretazione è molto corretta, la condivido molto. Cioè, noi viviamo un tempo, questo che stiamo attraversando, pieno di contraddizioni complicatissime e difficili. Peraltro stiamo attraversando un periodo nel quale tu parlavi di complessità. La complessità è doppia e mai il genere umano l'ha mai affrontata nella sua storia, perché noi abbiamo contemporaneamente, e dico contemporaneamente, quella che io definisco una rottura verticale e una rottura orizzontale, nel senso che mi riferisco alla rottura orizzontale, che è quella che vediamo tutti i giorni, cioè il mondo è diventato piccolo, non ci sono più tramezzi che dividono un paese dall'altro, le frontiere sono cadute, c'è un mescolamento di razze, di persone, di culture, di religioni, di convivenza difficile, che ovviamente crea opportunità, ma crea anche tante paure, tanti sbandamenti e tanti rigurgiti di xenofobia, come vediamo chiaramente, limpidamente, specialmente nella nostra Europa e in tanti paesi europei. E contemporaneamente a questa rottura orizzontale, cioè del fatto che il mondo è diventato piccolo e il mescolamento è continuo, e quindi la società attuale incontra problemi di coesistenza e convivenza, abbiamo la rottura verticale, che è il passaggio non di una generazione rispetto a un'altra generazione, cioè è sempre avvenuto, ma noi stiamo passando da una generazione con valori, principi maturati dentro una cultura collettiva che derivava dalla storia degli ultimi 50 anni del secolo scorso, la storia industriale, a una generazione che invece è cresciuto e incontra non più il collettivo ma l'individuale, tipica della nuova era in cui viviamo, che è l'era della comunicazione e della tecnologia informatica. Questi passaggi sono passaggi che segnano duramente le culture delle generazioni. Noi l'abbiamo vissuta nel passaggio tra il mondo agricolo e il mondo industriale, basti pensare l'Ottocento con la seconda parte del Novecento. Noi stiamo attraversando adesso un'altra rottura epocale tra la cultura industriale collettiva e la cultura della società della comunicazione individuale e individualista, e ciò rende complicatissimo poter mettere insieme dei progetti culturali di vita che ti riescono a trasmettere valori, principi su come costruire questa società e poi il destino di ciascuno di noi. Tu dicevi semplificazione, piuttosto che dal punto di vista della capacità di interpretazione della complessità. La semplificazione è giusta, però bisogna stare attenti che la semplificazione non sia semplicemente semplicismo, e cioè che non sia semplicemente riduzione ai minimi termini delle questioni, pensando che si possano affrontare con delle scorciatoie invece che con la realtà della portata dei problemi reali che devi affrontare. Io penso che, e tu lo dicevi, per questo ho detto che sono molto d'accordo con te, che non c'è verso, noi abbiamo bisogno di rafforzare il terreno dell'educazione e della cultura. Se non c'è una capacità di rafforzare l'impianto culturale e quindi la formazione e l'educazione con cui crescono le generazioni l'una dopo l'altra, i messaggi prevalenti che ci arrivano in questa fase dei mezzi di comunicazione, il messaggio semplificato di internet, il messaggio semplificato televisivo, rischiano di creare una società barbara da questo punto di vista, nel senso di barbara intendo di dire senza cultura, di una società superficiale, incapace e che si rifiuta di riconoscere i problemi nella loro profondità, una società che scivola, che slitta senza riuscire a fermare il suo slittamento perché non riesce a camminare bene sul terreno, che è invece un terreno accidentato che deve essere vissuta non virtualmente ma con concretezza. È un periodo molto, molto difficile, me ne rendo conto, è anche questo, complicato poterne ragionare via telefono. Ne siamo tutti questo è evidente. Io ho un'ultimissima domanda, estremamente rapida. Tu parlavi di cadere indietro, il momento in cui il personaggio, anche tutte e due, si incontrano davanti a un fallimento, ecco, in quel momento tutto crolla. Quindi parlava di cadere indietro e vedere poi se uomini o donne sono capaci di rinascere in quanto uomini e donne. Allora, di fronte, la mia domanda è questa: di fronte a quello che vedo come cittadino, come semplice spettatore, di fronte all'impunità che c'è, perché è imperante l'impunità, fai, combina, sei soldi, sei dritto, ce la fai. Ecco, io questo volevo capire, se nel tuo libro tu parli di una giustizia terrena attraverso il fato, il destino che ci aiuta e va a colpire quello che ha venduto fino adesso cartapesta, o è una certezza quella che hai verificato con l'esperienza, insomma più una speranza o una certezza quella che hai tu, di far cadere, di far sbattere davanti a un muro chi sta andando così alla deriva? Anche adesso non riesco a sentire bene la domanda, puoi alzare un pochino il timbro di voce, ti chiedo scusa perché non riesco a sentire bene. No, c'è problema, dicevo, questo cadere indietro è una giustizia terrena, cioè tu ti stai augurando che la gente cada indietro oppure sei sicuro che la gente cada indietro, cioè che di fronte a che prima o poi quello che sta vendendo questa cartapesta, queste azioni di cartapesta, trova un muro contro cui sbattere la faccia. Ne sei certo oppure una speranza? Io penso di sì, peraltro viviamo un periodo in cui non solo individualmente ma collettivamente stiamo sbattendo la faccia, abbiamo sbattuto la faccia e non riusciamo ancora fuori da questa caduta all'indietro, come la definisci tu, perché i meccanismi non più soltanto individuali ma collettivi con cui si sono costruiti questo mondo senza regole e questa idea di poter aprire una competizione infinita, selvaggia nel genere umano e tra i vari paesi che ci sono nel mondo, ha portato il mondo al collasso finanziario, a una crisi economica dalla quale non riusciamo a venirne fuori. Fuori di metafora, non sappiamo bene che cosa capiterà da qui ai prossimi 3-4 mesi per i grandi paesi della nostra realtà europea, se questo meccanismo fasullo della speculazione non ci riporterà nuovamente all'indietro a distruggere addirittura ciò che abbiamo costruito negli ultimi 40 anni della stessa capacità di mettere in piedi un'Europa unita con delle regole interne, con una capacità di compromesso tra problemi sociali e problemi economici. Noi abbiamo davanti a noi il buio e il buio ci viene dato proprio da questi meccanismi perversi che ho cercato di descrivere nel libro, anche di denunciarli per cercare di far aprire gli occhi e dare un avvertimento collettivo su come è necessario affrontare diversamente la vita e su come sia necessario mettere bene attentamente in regola questi processi malati e perversi. Lo dico anche nei ringraziamenti finali, nell'ultima pagina del libro, in cui ricordo le parole con cui l'attuale Presidente della Banca Centrale Europea, Trichet, mi ha raccontato i meccanismi veri con cui operano la speculazione finanziaria e da cui siamo lontanissimi ancora da vederne l'uscita dal tunnel. Walter, comunque alla fine il tuo romanzo si conclude effettivamente con una nota di speranza e qui ritorno al discorso che facevamo prima, così completiamo poi insomma tutte le parti salienti del romanzo sul ritorna poi il micro, ritorna quindi il paese, quindi ritorna la famiglia, ritorna il nonno che si sacrifica, che va a prendere il piccolo e lo riporta quindi insomma se vuoi alle origini poi insomma anche della sua della sua identità. Quindi questo mi sembrava essere un passaggio poi, diciamo, importante, perché lo fai vivere ad un bambino che quindi rappresenta il futuro, quindi per usare parole non mi è l'uomo che verrà, quindi per dire quello che sarà la nuova generazione, col simbolo dell'arcobaleno, che io ho trovato effettivamente veramente, insomma, attinente a tutto il tuo ragionamento. E quindi veramente io non posso che consigliare a tutti i nostri amici ascoltatori, sia quelli che ci ascoltano questa sera in diretta, sia quelli che ci riascolteranno in podcast, Solstizio d'inverno di Walter Cerfeda, edito da Albatros. Walter, come sai, il tempo in radio è tiranno e scorre via velocemente, quindi magari un ultimo saluto, insomma, se c'è qualcuno a cui vuoi indirizzare un saluto approfittando dai nostri microfoni. Ma intanto alla vostra gentilezza e poi a tutti gli ascoltatori che hanno avuto la pazienza di seguirci in questa chiacchierata, sperando che le cose che ci siamo scambiati possano aver rappresentato un solo qualche secondo di riflessione sui temi che abbiamo toccato, e poi con la speranza a breve, nei prossimi giorni, di rivederci e riabbracciarci insieme in quella di Bruxelles. Ah, questo, guarda, veramente rinnoviamo anche noi, insomma, la possibilità di ritrovarci e magari di parlarne poi personalmente. Noi ti auguriamo ovviamente tutto il meglio e ti auguriamo anche di trascorrere delle serene festività, ce lo auguriamo un po', insomma, tutti quanti noi, e veramente quando sei da queste parti facci sapere, insomma, noi saremo veramente ben felici di ritrovarti. Grazie molte e buon lavoro. Buona serata. Grazie, buon Natale. Salve. Ciao, arrivederci. Ed eccoci qui, è stata veramente un'intervista ricca di contenuti, insomma, è lo spazio che abbiamo dedicato a Walter, ci ha permesso anche di toccare tanti temi che avevamo già ritrovato nella nostra Bruxellando. Noi siamo... siamo agli sgoccioli. Siamo agli sgoccioli. Te la sei cavata, niente teoria della corda neanche stavolta. Non per colpa mia. Vabbè, ma io non sono convinto che fossi preparata. Lo eri. Assolutamente, avevo studiato il libro di Brian Greene, lo consiglio ancora a tutti voi. Dai, vai con l'ultimo suggerimento, io intanto già vi saluto. L'ultimo suggerimento della nostra agenda, perché vale la pena. Ma guardate, Agatha Christmas di Aurélie Yannoy, bellissimo. La sveglia di Natale, personaggi un po' strani sbarcano in chalet delle Ardenne in piena tempesta di neve, e lì comincia una serie di catastrofi in serie. E vabbè, questo è ciò che succede per 12 euro gli adulti al Le Couperdon, al Couperdon Café Théâtre di Lemonnier 99 a Bruxelles, a partire dal 15 dicembre, cioè domani, e fino al 2 gennaio. E poi, da divertente, estremamente divertente, Brussels Dog Show. Più di 3.000 cani, 220 razze, una giuria internazionale composta di più di 35 giudici, è una delle più grosse esposizioni internazionali di cani. E insomma, è inutile spiegarlo, ci sarà anche un mercatino di Natale, questi fanno delle fiere, bellissimo. Se voi amate i cani, vi piace andare alle feste, dalle 10 alle 18 al Bruxelles Expo, il 18 e il 19 dicembre, quindi bellissimo, avete due giorni. Quindi insomma... c'è un intero weekend da consacrare. Assolutamente, per gli amanti dei cani. Noi vi ringraziamo ancora una volta per la pazienza, salutiamo Dani M in regia e ci ritroviamo martedì prossimo. Ciao! Ciao a tutti! Ciao!